Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il dolore, diari della guerra, tratto da Il dolore e quaderni della guerra e altri testi di Marguerite Duras e da L'istruttoria di Peter Weiss, regia e interpretazione di Elena Arvigo, al Teatro Orgo Studio a Roma dal 30 ottobre al 3 novembre 2019. Posen sie geblieben, sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Ho ritrovato questo diario dentro due quaderni. Non mi ricordavo di averlo scritto. Ho riconosciuto la calligrafia, la successione degli eventi, gli spostamenti, le attese, la casa. Ma non riesco a ricordarmi di me nell'atto di scriverlo, questo diario. Mi sono trovata di fronte a pagine piene di una calligrafia minuta, calma, regolare. Mi sono trovata di fronte a uno straordinario disordine del pensiero e del sentimento che non ho osato toccare. Questo diario è tra le cose più importanti della mia vita. Il telefono è di fronte al camino a portata di mano. A destra il corridoio, in fondo al corridoio la porta d'ingresso. Potrebbe venire qui direttamente. Uno squillo di campanello. Chi è? Io? Ho anche telefonato appena arrivato ad un centro di smistamento. Sono tornato, sono all'hotel Lutezia per le formalità. Preavvisi? Nessuno. Solo la telefonata. Oppure l'arrivo, possibili, tutti e due. Basta che torni. Non è un caso speciale, nessuna speciale ragione perché non torni. Perché torni? Neppure. Suonerebbe la porta. Chi è? Io? Ne succedono le cose dopo tutto. Sono riusciti a passare il Reno e io sono riuscita a vedere la fine della guerra. Non è niente di straordinario. Straordinario è tutto quello che non ci si aspetta. Devo essere ragionevole, io sto aspettando Robert, mio marito, che deve tornare. Il telefono squilla. Anche questo mi devo ricordare, che a questo serve il telefono. Rispondere, rispondere, non buttare giù, non urlare di lasciarmi stare, rispondere, pronto? Pronto, ci sono novità? No, nessuna. Niente, ancora, nessun segnale. Ieri pomeriggio il campo di Bergen-Belsen è stato liberato dall'esercito britannico. Silenzio. Farò ancora una volta la solita domanda. Ecco che la faccio. Lei che cosa ne pensa? Io comincio ad essere molto preoccupata. No, non bisogna essere scoraggiati, bisogna tenere duro. Lei non è sola. Conosco una madre di 4 figli, lo so. Lo so. Chiedo scusa, metto giù il telefono e rimango immobile. Non sprecare energie per ragionare, non immaginare. Ragionare. Ha detto: sa che Belsen è stato liberato? No, non lo sapevo. Altro campo liberato, uno di più. Ha detto ieri pomeriggio, questo significa che le liste con i nomi arriveranno domani mattina, 17 aprile. Questo non l'ha detto, ma io lo so, ci mettono 2 giorni per arrivare. Domani devo uscire, comprare il giornale, leggere i nomi, sento colpo nelle tempie. No, non leggerò quei nomi, non leggerò quei nomi. Leggo nomi da settimane ed è un sistema che non funziona. Le tempie battono, mai il suo nome, mai ci sarà il suo nome se sono io a leggerlo. Battono sempre più forte, è tempo che io mi muova, alzarmi, devo muovermi alle 5, devo muovermi, devo avere degli orari, devo muovermi da qui, i colpi alle tempie continuano, è la sua morte dentro di me che batte contro le mie tempie. Non devo perdere la testa, devo uscire da qui. Non devo perdere la testa. Mi infilo il cappotto. La portinaia che mi saluta. Nessuna sfumatura particolare nelle sue parole, niente di particolare, neanche per la strada. Fuori è aprile. Cammino. Cammino, le mani affondate nelle tasche, le gambe che vanno avanti. Devo evitare le edicole, evitare i centri di smistamento. Non si riesce più a stare dietro allo stupore degli eventi in aprile. Diranno, che è successo in aprile? La fine di 6 anni di guerra, la fine della seconda guerra mondiale è avvenuta in aprile. La Germania nazista schiacciata, la luce del giorno, a confusione sul mistero nazista. Cammino sempre più velocemente e ho questa certezza ora. È morto e ha pensato a me prima di morire. Io so tutto quello che si può sapere quando non si sa niente. Fra me e chi vive di dati obiettivi non c'è niente in comune. In aprile mi diranno che è morto in aprile. Mentre gli eserciti alleati stavano avanzando, lui era in una fossa già da 3 settimane. Riesco a vedere la sua bocca socchiusa, che ha pronunciato il mio nome prima di morire. Quale altro se no? Luce rossa, vespertina su Parigi, mondo che finisce. Devo rientrare a casa, chiudermi a casa con il mio telefono ad aspettare. Muoio anch'io stasera, ma non muoio contro nessuno. Sono indifferente. Sono indifferente anche alla mia indifferenza. Morire non sarà raggiungerlo, sarà smettere di aspettare. Viene ogni giorno, in certi casi 2 volte al giorno. È arrivato da noi, sono le 9 e non abbiamo ancora cenato. La settimana scorsa ancora si accostava, mi prendeva la mano e diceva «Robert tornerà, lo giuro». Ora invece sono io che gli chiedo «Com'è possibile che non arrivi?» Nessuna notizia. E lui mi dice che ci sono ancora migliaia di deportati nei campi, migliaia che gli alleati non hanno raggiunto e che ci vorrà tempo, ci vorranno mesi, forse anni. La discussione dura a lungo fino a quando chiedo a Dionì di giurarmi che Robert tornerà. Allora Dionì giura che Robert tornerà. Vado in cucina e metto a cuocere le patate, vi resto. Poggio la fronte sull'orlo della tavola. Chiudo gli occhi. Di colpo tutto è chiaro. Robert! Robert è morto. Da 15 giorni. Da 15 notti e 15 giorni. Robert è abbandonato in una fossa e ha le mani spalancate, mani a me più care della mia stessa vita, mani che conosco a quel modo in cui nessun altro può conoscerle. Ci sediamo a mangiare, subito, subito, la voglia di vomitare ritorna. Questo pane è quello che lui non ha mangiato. È la mancanza di questo pane che lo ha fatto morire. Sono a disagio, desidero che Dio mi se ne vada, devo stare da sola. La mia attesa ha ancora bisogno di più spazio, di più vuoto. L'appartamento scricchiola sotto i miei passi, sotto questo silenzio. Spengo le lampade, torno in camera e cammino lentamente. Per non ridestare nessun pensiero, devo stare attenta se non dormo. Il giorno dopo è molto peggio. Tutte le sere io mi addormento accanto a lui. Nella fossa buia, accanto a lui. Thank you. Lavorare mi riesce male. Allineo nomi su nomi e non sono mai. Allineo nomi su nomi e non sono mai il suo. Ho voglia ogni 5 minuti di lasciare la matita e uscire dal centro d'Orsay e non tornarci mai più. Ho creato Libre, il giornale Libre, nel settembre del 1944. Ci sono state molte difficoltà per far accettare il servizio di ricerche del nostro giornale. Non è un giornale come gli altri e io non posso andarmene dal centro d'Orsay. Devo rimanere qua a fare il mio lavoro. Lavoro a testa bassa e l'unica cosa a cui cerco di pensare è non sbagliare l'ortografia. Non è un giornale come gli altri, è il solo a fare edizioni speciali con le liste dei nomi. Non è un servizio ufficiale autorizzato. Siamo al centro illegalmente, siamo tollerati. Interroghiamo i prigionieri per raccogliere notizie sui convogli e sui trasferimenti di campo. Molti prigionieri vengono portati in un campo e poi trasferiti in un altro e poi in un altro ancora. E così è facile perderne le tracce. Il nostro giornale è letto da più di 75.000 parenti di deportati e di prigionieri che sperano di trovare i nomi dei loro cari. Io penso soltanto a non sbagliare l'ortografia. Di tanto in tanto arriva un ufficiale. Sono facili da riconoscere gli ufficiali del rimpatrio. Sono molto giovani, con la camicia color khaki aderente, torace in bella vista. Vengono e ci chiedono che cosa sia questo servizio ricerche, se abbiamo il lasciapassare. Avete il permesso di stare qui? Noi mostriamo sempre carte false, lasciapassare. E così possiamo continuare a interrogare i prigionieri. Ormai gli arrivi sono sempre di più, sempre più frequenti. Arrivano a ondate, tantissimi, file di camion, a gruppi di 50, i prigionieri sono scaricati nel centro. Ogni volta che un gruppo appare parte una musica, se il gruppo è molto numeroso è la Marsigliese. Ogni tanto vado allo sportello in fondo alla sala per chiedere se sono arrivati dei deportati. Niente deportati, mi dicono. No, qui no. Per questo che riesco con fatica a resistere. Qui soltanto prigionieri per ora. I deportati arrivano a Lutezia, qui a Orsay no, non ancora. Tutta la sala del centro d'Orsay è piena di uniformi, ufficiali e donne. Lavorano per la missione rimpatrio. Le donne hanno un tailleur blu oltre mare, capelli cotonati, mani curate, unghie, laccate di rosso. Mi chiedo da dove siano usciti dopo 6 anni di occupazione. Chi sono? Chi sono queste persone improvvisamente fra noi? Dionì mi dice, li guardi bene, li tenga a mente. Questa è la destra che si è ritrovata anche nella confusione della guerra. Saranno i nemici di ogni movimento di resistenza, occuperanno la Francia. Le donne parlano ai prigionieri come se fossero in un salotto, interloquiscono. Salvo rare eccezioni, l'accento è quello dell'aristocrazia francese. Hanno il sorriso specifico delle donne che vogliono mostrare insieme la stanchezza e lo sforzo però anche di nasconderla. Fuori dal centro, invece, ci sono le donne dei prigionieri di guerra che formano un coagulo, una massa compatta. Tra loro i prigionieri transenne bianche gridano «Avete notizie?» e mostrano ai prigionieri foto di altri prigionieri, persone. A volte i soldati si fermano, qualcuno risponde. Ci sono donne che già alle 7 della mattina sono qui. Alcune rimangono fino alle 3 di notte. Nel centro però non entrano, è proibito. Anche persone che non aspettano nessuno vengono qui alla stazione d'Orsay. Curiosi. Curiosi che vengono per vedere lo spettacolo. Li riconosci perché sono in silenzio. Si tengono in disparte, così possono vedere insieme l'arrivo dei soldati e l'accoglienza delle donne. Gli arrivi si svolgono ordinatamente. I grandi camion americani sbucano e le donne urlano, battono le mani. I prigionieri vengono direttamente dalla Germania e, nella maggior parte dei casi, non capiscono che cosa si voglia da loro. Sorridono e si voltano a guardare quelle donne francesi che sono le prime che loro vedono. Verso le 3 è previsto l'arrivo. Diony è al mio fianco. Toccherà a lui chiedere ai deportati se hanno conosciuto Robert. C'è un gran frastuono nella hall. Gli ufficiali del rimpatrio vanno avanti e indietro. Sento dire il ministro e in mezzo agli ufficiali lo riconosco. Guardo l'ingresso. Pochissime probabilità che ci sia Robert, lo so. Forse qualcuno potrà dirci qualcosa. Tremo, ho freddo, mi appoggio al muro, poi un brusio. Qualcuno dice, eccoli! Fuori però le donne non hanno gridato. Nessun applauso. Improvvisamente sbucano dal corridoio d'ingresso 2 ufficiali. Portano un uomo. L'uomo è vestito da civile, rasato. Ma si può neanche dire che sia magro. È un'altra cosa. Non guarda nulla, né ministro, né onore, né bandiere, nulla. Lui è il primo deportato di Weimar arrivato al centro. Senza rendermene conto, sono andata avanti e ora mi trovo in mezzo alla Olde. Due altri ufficiali trasportano un vecchio, gli arrivi continuano, li fanno sedere su panchine sistemate e il ministro va verso di loro. Quello è entrato per secondo, l'uomo anziano piange. Chissà poi se è anziano, vecchio, come sembra. Forse a 20 anni è impossibile sapere, immaginare l'età. Il ministro si avvicina, si toglie il cappello, va verso il vecchio, gli porge la mano. Il vecchio la prende, non sa che è la mano del ministro. Una donna, allora di quelle con uniforme blu, oltremare, glielo dice: «È il ministro! Quella è la mano del ministro!» Il vecchio però continua a piangere e non ha neanche sollevato la testa. Poi Dionisi è seduto accanto a lui. Faccio rapidamente il punto. Una probabilità su 10.000 che quest'uomo abbia conosciuto Robert. Dionì parla a lungo con il vecchio, non guardo altro, solo il suo viso. Parlano, va per le lunghe. Allora mi sposto lentamente verso la panca, nel campo visivo di Dionì. Mi vede, mi guarda e fa un cenno con la testa. No. Nessuno. Né il vecchio. Né nessun altro. Ha mai visto Robert? Mi vergogno della mia stanchezza. Ho voglia di stendermi per terra. Trovo le energie per uscire dal centro. Prendo il lungo Senna. Il tempo è bellissimo, una bellissima giornata di sole. La città è lontana, però. È possibile che lui torni nonostante tutto. Ma io non lo so, non posso sapere. Sono troppo stanca. È troppo sporca. Passo al centro parte delle mie notti anche. Sono 8 giorni che non mi lavo. È primavera, ma io ho freddo. È come se avessi una febbre costante che non mi lascerà più. Stasera cerco di pensare a chi sono io. Penso a me. Mai incontrata. Una donna tanto vile. Passo in rassegna le donne che conosco e nessuna è vile quanto me. La mia viltà è tale che nessuno neanche vi fa più cenno, tranne il violino. Nessuno. Lui solo mi dice. Non ci si può ridurre così. Lui solo per me non ha pietà. E mi parla. Sempre con tono severo. E che a me neppure per un momento mi balena la necessità di avere coraggio. Avere coraggio forse sarebbe la mia forma di dignità. Io sono sola. Il bambino che ho avuto da Robert. Vittima. Anche lui della guerra. Era complicato per i medici spostarsi di notte. Non c'è mai abbastanza benzina. Non ho battaglie da affrontare. La sola che sto affrontando, nessuno può conoscerla. Lotto contro le immagini della fossa buia. Ci sono momenti in cui l'immagine è fortissima. Allora esco, urlo, cammino per le vie di Parigi. E la gente cammina per le strade come al solito, code davanti ai negozi. Code perché? Perché è aprile, sono arrivate le ciliegie. I russi sono alle porte di Berlino e sono arrivate le ciliegie. Le donne fanno la coda per comprare le ciliegie e aspettano che cada Berlino. E anch'io l'aspetto. L'intero mondo aspetta la caduta della Germania. Tutti i giornali lo scrivono. Berlino in fiamme. Berlino sarà assassino alla radice. Fra le rovine il sangue tedesco colerà. Qualche volta mi pare di sentirlo, l'odore di quel sangue, e di vederlo scorrere, di desiderare di vederlo scorrere. Al centro ieri è arrivato un prete, prigioniero, con un bambino tedesco, lo teneva per mano. Era fiero, lo mostrava, spiegava come lo aveva trovato, diceva che quel povero bambino non aveva colpa. Le donne lo guardavano male. Il prete gli attribuiva i diritto di essere perdonato, di assolvere, già. Non era reduce da nessun dolore, da nessuna attesa. Mai un prete è apparso così tanto fuori luogo. Le donne gli toglievano lo sguardo e per il bambino non avevano occhi. Il mondo è spaccato in due. Da una parte il fronte delle donne, compatte, irriducibili. Dall'altra quell'uomo, il prete con il bambino, che aveva ragione, da solo, in una lingua che nessuno comprendeva. Thank you. 600.000 ebrei arrestati in Francia. Ne tornerà uno su 100, dicono. Dunque, 6.000. 140.000 prigionieri rimpatriati. Sui deportati, nessuna cifra, signora. Da un mese avrebbe potuto darci sue notizie, perché no? Cammino per le strade, stanca. Ci sarà un altro arrivo di deportati da Buchenwald. Sono stanca, mi sembra di aver aspettato abbastanza. Ci sono persone che non hanno mai aspettato, ci sono persone che hanno smesso di aspettare. Ieri, quando sono uscita dal centro d'Orsay, sono andata ad avvertire una famiglia. Ho suonato, mi è stato aperto, ho detto: vengo a nome del centro d'Orsay. Suo figlio tornerà, è in buona salute. La donna era già informata, aveva ricevuto una lettera dal figlio da 5 giorni. Dionini aspettava fuori dal portone, ho detto: erano informati, il figlio ha scritto, quindi possono scrivere. Non è comune aspettare così. Non è possibile aspettare così. Io non saprò mai nulla. Nessuno saprà mai nulla. Sappiamo che hanno avuto fame per mesi. Non hanno visto un pezzo di pane nemmeno prima di morire, neanche un pezzo di pane. Questa attesa, viverla, significa non esistere più. Accadono più cose nella mia testa che sulle strade tedesche. Raffiche di mitra in ogni momento dentro la testa, raffiche continue. Perdo continuamente la testa. Fucilato nella strada, morto a pancia vuota. Dal 7 aprile posso scegliere. Forse era tra i 2.000 fucilati di Belsen. A Mittelgladbach hanno trovato 1.500 corpi in un carnaio. I sopravvissuti di Buchenwald oggi salutano i 51.000 morti del campo. Fucilate l'arrivo degli alleati. Perché? Che cosa si fa quando si sta perdendo la guerra? Che cosa si fa all'ultimo secondo quando si perde la guerra? Si fracassano le scoviglie, si spaccano i vetri a sassate, si ammazzano i cani, li fucilavano. L'avanzata degli alleati è troppo rapida, non hanno tempo di portarseli dietro, allora fucilano e ci saranno fucilazioni fino al giorno in cui verrà liberato l'ultimo campo di concentramento. E nessuno ha fatto niente. Non odio più neanche i tedeschi. Quello che provo non è semplice. Ho potuto odiarli per un certo periodo. Tutto allora era limpido. Cancellarli dalla terra, perché l'accaduto non accadesse più. Ora, fra l'amore per lui e l'odio per loro, io non so scegliere. È una medaglia a due facce. Su una, il suo petto. Robert di fronte a un tedesco. 12 mesi di speranza che annegano. Dall'altra, gli occhi del tedesco che prende la mira. Dritto e rovescio di una sola immagine. Non so se devo correre ad accogliere lui tra le braccia e lasciar fuggire il tedesco, o lasciar Robert e impadronirmi di colui che l'ha ucciso, bucare i suoi occhi che non hanno guardato neanche un secondo, quelli di Robert. Non ce la faccio più a portare la testa, le gambe e le braccia sono pesanti, ma meno pesanti della testa. Non è più una testa, questo è un cesso. Sono dimenticata di andare in panetteria a prendere il pane, non bisogna lasciare che scadano i tagliandi, non è giusto. Fra un'ora arriverà da lì, chiudo gli occhi. Se tornasse, se Robert tornasse, andremo al mare. È la cosa che gli piacerebbe di più. In ogni caso, io credo che morirò pure se torna. Suonasse ora, chi è Robert? Aprire la porta, morire. ho deciso di aspettare così, fino a morirmi. Riguarda solo me, nessun altro, neanche Robert, riguarda me. Torno al divano, mi stendo. Non posso dargli un pezzo di pane, neanche un pezzo di pane. Gli do la mia vita, potergli dare la vita. Nella testa la sua fame gira come un avvoltoio. È impossibile dargli qualcosa, è impossibile sapere dov'è. Compro miele, zucchero, paste e mi dico, se è morto, ti brucerò. Non è più pensare questo. Rifiuto ogni ipotesi, nella mia testa nient'altro accade, solo rovesciamenti senza oggetto, sangue che scorre, grida, il pensiero non riesce a farsi non partecipe al caos, è continuamente soppiantato dal caos. E vivo solo al presente. Forse la cosa non è ancora accaduta. Una pallottola nel cuore, negli occhi. Forse è nella colonna e avanza passo dopo passo. Gli consentirà la fatica di muovere un altro passo ancora? Oppure l'altro passo non l'ha potuto fare? Oppure l'ha fatto? L'ha fatto 15 giorni fa, l'ultimo passo. Quando mi diranno che è morto, mi diranno 21 aprile? 16 febbraio? 13 dicembre, quando ha fatto l'ultimo passo, dov'era? Quando ha mangiato l'ultima volta? Aveva fame? Vado a comprare il pane, le scale di casa, che ogni suona il pianoforte. Ha sempre suonato il pianoforte. Non oso dirgli di smettere, mi rimbomba nella testa. È strano. Vorrei urlare, che è strano non avere notizie così. Questo non è più pensare. Tutto è in sospeso. Mi faccio un caffè molto forte, prendo una pastiglia di Coridon. Berlino presa è per oggi. Lo annunciano tutti i giorni, ma oggi sarà la fine vera. I giornali dicono come lo sapremo, dalle sirene suoneranno l'ultima volta della guerra. Non vado più al centro, non ci andrò più. Oggi non vado né al centro né in tipografia. Ancora una foto di Belsen. Fossa lunghissima con cadaveri allineati, corpi magri come ancora non se n'erano mai visti. Seconda pagina del Fronte Nazionale. Notizia. 1000 deportati sono stati bruciati vivi in un granaio la mattina del 13 aprile dalle parti di Magdeburgo. Berlino brucia e io non mi muoverò più, ne sono sicura. Verso le 10 sono uscita. Improvvisamente, a casa mia, non potevo più tornare. La paura era tornata, paura di tutto. Improvvisamente sono andata da Dionio, ho suonato, mi ha aperto, mi ha preso tra le braccia. L'appartamento era cambiato, era la certezza, è morto, è stato il 21 d'aprile, morto il 21 d'aprile. Mi ero alzata e sono andata al centro della camera ed è successo in un secondo. Niente più colpi alle tempie, finiti, il viso cambia, non sento più il cuore. L'orrore sta lentamente andando via, annego. Non aspetto più, è finita. Dove sei? Come saperlo? In sia, dove sono, neanche io so dove sono, che luogo sia questo, che nome abbia, che razza di storia sia la mia, la sua, di che si tratta, chi è Robert, perché lui sarebbe atteso, lui e non un altro, e lei cosa attende veramente, lei che cosa aspetta, di quale altra attesa in attesa, che cosa sta accadendo in questa camera? Che cosa sta succedendo in questo momento? Se smetto di essere io posso smettere di aspettarlo. Devo smettere di esistere. Niente di nuovo. Ancora. Sembrava essere accaduto. 24 aprile. 24 aprile. Uno squillo di telefono. Mi sveglio, è buio. Accendo. La sveglia segna le 5:30, ancora notte. Una voce. Pronto, cosa? È Dionigi, è rimasto a dormire da me. Cosa? Cosa dice? Sì, sì, il numero è giusto, sì, Robert. Pausa. Sono accanto a Dionigi. Cerco di strappargli il ricevitore. La telefonata continua. Dionì tiene duro. Che notizie? Pausa. Qualcuno sta parlando dalla parte opposta di Parigi. Lotto per conquistare il ricevitore. Dionì non molla. Impossibile farcela. E allora? Questi compagni? Dionì è agitato. Scosta il ricevitore dall'orecchio. Dice: dei compagni di Robert sono arrivati a Gaumont. Lei vorrebbe il ricevitore. Cerca di strapparglielo. Dionì non dice niente, è all'apparecchio, il ricevitore è saldamente nelle sue mani, lei va avanti e indietro, nient'altro, Dionì voltandosi verso di lei, l'hanno lasciato 2 giorni fa, era vivo! Dove sono? All'hotel. Ci accompagna. All'hotel le luci sono accese. Grandi array di gente, uomini in vestito a righe di deportato, assistenti in camice bianca. Tutta la notte continuano ad arrivare. Ecco la camera, bussa, entro con lui. I piedi di un letto. Ci sono 2 persone, uomo e donna, parenti. Nel letto due deportati. Uno dorme, avrà 20 anni. L'altro mi sorride. Chiedo, è lei Pernotti? Sì, sono io. Sono la moglie di Robert. Ci dicono che l'hanno lasciato 2 giorni prima. Che erano in casa insieme, ma poi si sono perse le sue tracce. Mi sono seduta subito accanto al letto. Chiedo, fucilavano? I due si guardano, ma rispondono subito. Avevano smesso di fucilare, dice. È sicuro? E Pernotti a rispondere. Il giorno sì, che siamo partiti, sì, da 2 giorni avevano smesso di fucilare. Pernotti mi guarda, guarda Dio, mi sorride. Siamo molto stanchi, dovete perdonarci, non ricordiamo gli italiani. Ma l'avete cercato bene, chiede Dionì. Certo, dice il giovane. Quanto a cercare l'abbiamo cercato, l'abbiamo chiamato persino. Era pericoloso. Era troppo vicino alla strada. Un buon compagno, dice Pernotti. Certo che l'abbiamo cercato. Faceva delle conferenze sulla Francia, parlava. Quelli che l'ascoltavano erano incantati. Io chiedo, ma non può essere che non l'avete trovato perché non c'era più? Perché lo avevano fucilato. Dionì ha gesti impazienti, in collera, si trattiene, pallido, quasi come Pernotti. Quando l'avete visto l'ultima volta? Come se interrogassimo dei colpevoli. Non lasciamo loro un momento di respiro. Quello che vorremmo sapere è perché non l'avete trovato. Faceva buio, dice Pernotti. Forse è evaso una seconda volta, dice il giovane. Che cosa gli hanno fatto? Chiedo io. Come mai non l'hanno fucilato? Gli americani erano vicinissimi, non c'era più tempo. Siete sicuri che non continuassero le fucilazioni? Non si ricordano altro. Si ricordano gli ondeggiamenti della colonna, gli americani che erano dappertutto, ma le altre cose... No. Non le ricordavo. L'hanno visto, era vivo. Sembra confermato che sia evaso il 13 aprile insieme ad altri e che stava bene. Ad un certo punto però si sono perse le sue tracce. L'hanno aspettato, ma poi hanno dovuto continuare. Philippe, che era con lui, dice che era troppo vicino alla strada e che forse l'hanno ripreso, ma che mentre ancora lo aspettava non ha sentito spari. Bisogna contare, dice Morlan, tra i 10 e i 12 giorni. È il tempo che ci stanno mettendo tutti a tornare, mi dice François. Bisogna aver fiducia. Robert dovrebbe arrivare domani o dopodomani, forse domani. Giovedì 26 aprile. Diony ha chiamato il dottore, la mia febbre continua. Armand, un compagno di Robert, ha telefonato, mi ha chiesto di lui. Erano evasi insieme il 13 aprile e lui è tornato oggi. Venerdì 27 aprile, nulla, nulla la notte, nulla il giorno. Non riesco più ad alzarmi. Nulla, il buco nero. Nessun barlume, ricompongo la catena dei giorni. C'è un vuoto, un abisso, tra il momento in cui Philip non ha udito sparare e la stazione dove nessuno ha visto Robert, dove Robert non è mai arrivato. Mi alzo, Diony arriva. Esige che vada a mangiare al ristorante con lui. Ristorante pieno, gente che parla della fine della guerra. Non ho fame, non avrò mai più fame. Calcolo infernale. Se stasera non ho notizie, Robert è morto. Al momento della pace lui non ci sarà. I partigiani italiani hanno catturato Mussolini. Tutta l'Italia del Nord in mano ai partigiani. Ho conservato tutti i giornali per Robert. Se torna, mangerò con lui. Prima, no. Penso alle donne tedesche che aspettano i figli che non torneranno. L'antica attesa delle donne, non posso fare a meno di pensare alla vecchia donna dai capelli grigi che aspetta notizie da quel figlio che io ho visto. Chi aspetto io? Qualcuno forse l'avrà visto come io ho visto quello in una fossa a Parigi, le mani che facevano un ultimo cenno, gli occhi che non vedevano più. 28 aprile, il mondo intero aspetta, nel suo discorso alla radio Himmler dichiara che Hitler è morente e non sopravviverà all'annuncio della resa senza condizioni. Mussolini dovrà espiare per mano del popolo, dicono i giornali, sempre meno ragioni di non avere notizie. È la notte buia che sta scendendo, Parigi illuminata, ristoranti pieni, sono uscita, ho visto la pace imminente. Sono tornata a casa di corsa, braccata dalla pace. Nessun posto per me qui. Io non sono qui, ma là con lui. Sono sospesa a un filo. La città illuminata non ha per me altro significato. È la città che loro non vedranno. Tanti morti. Sono veramente tanti. 7 milioni di ebrei sterminati, trasportati in vagoni, gasati nelle camere. Nelle camere a gas, costruite a questo scopo, nei forni crematori, costruiti a questo scopo. C'è stupore. Come si potrà essere ancora tedeschi? Una delle più grandi nazioni civili del mondo, capitale della musica di tutti i tempi, ha assassinato 11 milioni di esseri umani in modo metodico, perfetto, un'industria di Stato. Se il crimine nazista non viene allargato su scala mondiale, inteso in maniera collettiva, se l'orrore nazista viene considerato un destino tedesco, non un destino collettivo, ogni deportato sarà ridotto a vittima di un conflitto locale. Una sola risposta per un tale crimine: trasformarlo nel crimine di tutti, condividerlo come si condivide l'idea della fraternità per sopportarlo, condividere il crimine. Giorno della pace. telefono ha suonato. Robert è ad Dachau, è vivo. Mi ascolti con molta attenzione. Robert è esausto, a un punto che a lei non può immaginare. È questione di ore, qui non può restare. Bisogna che dica a Dionì di andare a prendere dagli uffici uniformi, passaporti. Seguendo la trafila ufficiale si arriverebbe troppo tardi. Devono partire all'istante. François Mitterrand che mi ha chiamato. Era andato a Dachau in missione e là aveva trovato Robert nella parte vietata del campo dove si depositavano i morti e i casi disperati. Qualcuno aveva pronunciato un nome improvvisamente. François? C'era voluta un'ora prima che riconoscessero Robert. Alla fine l'avevano messo con i sopravvissuti. Soldati americani in giro nessuno. Per questo avevano potuto farlo. Erano tutti spaventati dal tifo. Dionì e un altro compagno sono partiti da Parigi quel giorno stesso, nel primo pomeriggio. Hanno viaggiato tutta la notte. Arrivati a Dachau la mattina dopo, hanno cercato Robert per molte ore. È stato necessario reggerlo in piedi, vestirlo. Hanno dovuto evitargli le vaccinazioni. I soldati americani portavano maschere a gas contro il tifo e se si fossero accorti del vero stato di Robert lo avrebbero riportato tra i morti. Lasciata alle spalle Dachau, Robert ha detto di sapere che non sarebbe arrivato a Parigi più. Allora ha cominciato a raccontare. Robert non ha accusato nessuno, nessuna razza, nessun popolo. Ha accusato l'uomo. All'uscita dall'orrore, sul punto di morire, Robert aveva ancora questa capacità, questa grazia di non accusare nessuno, fuorché i governi, che sono effimeri nella storia dei popoli. Sono rimasti a lungo sulla scala con le porte aperte. Mi hanno detto poi che la portinaia aveva decorato l'ingresso per accoglierlo, ma dopo averlo visto passare, aveva strappato via tutto, si era chiusa nell'appartamento, inferocita a piangere. Ricordo che sono scesa, lo reggevano per le braccia, fermi sul pianerottolo. Lui aveva gli occhi alzati. Sono tornato indietro, urlavo, e questo mi ricordo. La guerra mi usciva fuori con queste urla. Mi sono ritrovata in una casa di vicini, mi costringevano a bere del rum, me lo versavano dentro la bocca, dentro le grida. Mi ricordo ad un certo punto i rumori si spengono. Lo vedo. Immenso. Davanti a me. Non lo riconosco, mi guarda, sorride, si lascia guardare. È un sorriso che improvvisamente riconosco. Aveva voluto rivedere la casa. Sostenuto dagli altri, aveva fatto il giro delle stanze. Le guance si increspavano. Senza staccarsi dalle ossa, solo nei suoi occhi si vedeva il sorriso. In cucina ha guardato la crostata di ciliegie preparata per lui e ha smesso di sorridere. Ha detto, serio, posso mangiarle? C'è stato un lungo silenzio, poi aveva smesso di guardarci. Un dolore intenso e muto gli offuscava il viso. Ancora una volta il nutrimento gli veniva rifiutato. Continuava a essergli rifiutato, come nel campo di concentramento. Come al campo aveva accettato, silenziosamente. Era pericoloso che i deportati mangiassero. Non aveva visto le nostre lacrime, non aveva visto che riuscivamo appena a guardarlo. Il dottore è arrivato, si è fermato, non riusciva a capire, poi ha capito. Quell'uomo non era ancora morto. Ondeggiava tra vita e morte. Lui, il dottore, era stato chiamato per farlo vivere ancora, di nuovo, quell'uomo. Questo dottore verrà ogni ora del giorno e della notte, per 3 settimane. Lo chiamavamo e arrivava quando la paura era troppa. La lotta contro la morte è cominciata molto presto. Lo accerchiava da tutte le parti. Febbre, 39, 40, 41, il cuore vibrava come una corda di violino, continuava a vibrare. Pensavamo, ora si ferma, non può andare avanti così, ora si fermerà. Non si ferma invece, non si è fermato. Era felice. Le uniche cose che resistevano erano il cuore e la testa, stralunata ma sublime. Si ricordava, raccontava, riconosceva, protestava, parlava, era felice, non aveva più paura, la febbre lo teneva su 17 giorni, 38 chili. Poi un giorno, dopo 17 giorni, la morte si è stancata. La febbre cade, esce da lui dopo 17 giorni e lui dice, ho fame. Digeriva perfettamente il succo di carne e dopo 3 giorni ha cominciato a mangiare alimenti solidi. Fame chiamava fame, mangiava, quell'occupazione prendeva tutto il suo tempo. Quando allontanavamo il cibo aspettava che lo avvicinassimo di nuovo. Lui è scomparso, al suo posto la fame. Inghiotte come un burrone e quando i piatti ritardano piange e dice che non lo capiamo. Ieri pomeriggio è andato a rubare pane nel frigorifero, ruba. Gli diciamo di fare attenzione, di non mangiare troppo, allora piange. Lo guardiamo dalla porta del salotto. Per 20 giorni l'abbiamo guardato mangiare. Qualche volta la gioia faceva piangere anche noi. Le forze che tornano. Anch'io ricomincio a mangiare, ricomincio a dormire, riprendo peso, torniamo a vivere. La mia identità era slittata, io ero semplicemente quella che aspettava, che lui che aspettava. L'intera mia persona era in questo desiderio e questo desiderio aveva una forza inesprimibile. La speranza è rimasta intera fino alla fine. E il dolore era radicato in quell'attesa e in quella speranza, insieme, nello stesso punto. Le forze che tornano. Quando è stato più in forze, gli abbiamo detto di sua sorella, Maria Luisa. Trasportata in aereo da Ravensbrück a Copenaghen, morta il giorno dell'armistizio. Sino al mattino siamo rimasti insieme nella camera senza parlare di lei, senza parlare. Lui ripeteva semplicemente 24 anni. Ha ripetuto 24 anni tutta la notte. Le forze sono cresciute ancora. Un altro giorno gli ho detto che dovevamo divorziare. Mi ha chiesto se fosse possibile ritrovarci un giorno. Ho detto no. Da 2 anni non avevo cambiato parere da quando avevo incontrato Dionigi. Volevo un figlio da Dionigi. Ma anche se lui non fosse esistito, gli ho detto, non sarei tornata a vivere con lui. Non mi ha chiesto le ragioni. Le ragioni che avevo di andarmene e io non le ho mai dette. Mare blu, dovunque, anche sotto i nostri occhi. Niente onde, solo una risacca che si muove.

fatto che delinea un po' il tuo percorso artistico? Partiamo dalle cose semplici. C'è una mia attrazione verso la scrittura femminile. Non devo dire scelta, è un po' una riflessione che faccio a posteriori, no? Quando uno dice, ma tutte le estati vado al mare, mai in montagna, forse perché in realtà mi piace più il mare, no? Cioè, forse no, però sicuramente, dato che sono testi che più o meno scelgo o tengo, no? Cioè, nel senso che comunque poi non lascio, è perché mi piace essere voce di scrittrici, le trovo che sia una scrittura, ma come altre mi piacerebbe affrontare, da Bachmann, Ingeborg, alla Simone Weil, il Miti, cioè comunque avevo fatto tutto il progetto dell'Imperdonabile su Politkovskaja, Jan Svetlana Aleksijevic, c'è sicuramente un'attenzione al femminile, d'altronde sono una donna pure io, forse c'è un riconoscimento, oppure chissà, non lo so, sicuramente non è che di qua non voglio mettere in scena Carver o Hemingway, o no, mi piacciono i testi belli, quello sì. È come quando fai la lista delle vacanze, che non è che uno dice, non è che non voglio andare in Giappone, no? Però prima di andare in Giappone mi piacerebbe andare in Islanda, mi piacerebbe andare in un sacco di... Quindi, come dire, non è che non mi piace Hemingway, o alcuni racconti sono straordinari, sarebbe bellissimo farne degli elefanti bianchi, altre farne degli atti unici teatrali, e sarebbero bellissimi. Però prima c'è sempre qualche altra cosa che mi rapisce, no? Sì. Che mi porta via. Mm-hmm. È un po' questo, forse. Elena, in chiusura ci lasci tutti i tuoi riferimenti web per seguirti? Non ho nomi d'arte, quindi mi chiamo Elena Rovigo, e così sono su tutti i social, su Instagram, su Facebook. Un saluto e un ringraziamento ad Elena Rovigo. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Reti, e vi ringrazio per questo spazio. Grazie, grazie mille. Alla prossima, ciao. Alla prossima, ciao. Il dolore, diari della guerra, tratto da Il dolore e Quaderni della guerra e altri testi di Marguerite Duras e da L'istruttoria di Peter Weiss. Regia e interpretazione di Elena Rovigo. Al Teatro Orgo Studio a Roma dal 30 ottobre al 3 novembre 2019. Con Nicola Alberto Rosini, regista dello spettacolo Mein Kampf Cabaret di Gheorghe Tabori, in scena dal 4 al 6 novembre 2019 a Roma, al Teatro dei Servi. Nicola, ben trovato. Ciao, ciao a tutti. Ci racconti? È uno spettacolo che nasce da un testo di Gheorghe Tabori, uno scrittore ebreo che immagina un giovane ragazzo appassionato di pittura, che poi non è altro che il Führer, Hitler, che appunto arriva a Vienna perché vuole tentare l'esame di ammissione all'Accademia di Belle Arti, e però, essendo squattrinato, trova rifugio presso un dormitorio dove vivono ebrei poveri. Qui incontra due ebrei abbastanza strani: uno è Lobkowitz, che è un ebreo che pensa di essere Dio, e l'altro è Herzl, un vecchio saggio filosofo ebreo con cui stringerà un'amicizia. Il paradosso del testo è che da questa amicizia profonda con questo ebreo nasce l'ideologia nazista. Intanto volevo chiederti se ne esistono altre versioni teatrali. Io credo che questa è la seconda volta che si fa in Italia. È un testo molto rappresentato in Germania. In Germania tantissimo, in tutti i teatri, in tutte le città, è un testo nazionale. In Italia no, è la seconda volta che si fa. È anche un testo che ha una comicità tipicamente yiddish, quindi anche molto intellettuale, ma anche molto forte, perché sappiamo quello che succederà dopo, e quindi è tutta piena di riferimenti buffi sulla tragedia del nazismo. Mm-hmm. Però no, non esistono altre versioni, diciamo, teatrali italiane. cosa ti ha impressionato maggiormente del testo? Il fatto che Herzl, che è appunto questo ebreo, non si rende conto, se non proprio alla fine, quando poi diciamo l'ideologia nazista è nata, che cosa sta covando l'amico, tra virgolette, l'amico Hitler. È un po' un testo che ci dice, beh, stiamo attenti perché ideologie, come dire, del male, diciamo così, per semplificare, possono essere nascoste e noi possiamo non accorgercene, anzi, molto spesso, diciamo, questo tipo di ideologie si infiltrano completamente a nostra insaputa. Questa roba mi sembrava molto moderna, molto contemporanea, perché diciamo una cosa di cui si discute moltissimo oggi. E quindi questa cosa mi ha colpito. Rispetto al testo, su cosa avete voluto centrare la rappresentazione? Molto complesso, che ha un sacco di riferimenti filosofici. Un'altra cosa che mi ha colpito molto e che costituisce poi in fondo la costruzione drammaturgica del testo è il tempo dell'attesa. L'attesa è una cosa tipica, diciamo, ebraica, questi attendono il Messia e diciamo nell'attesa scorre la vita e se scorre la vita ti sfugge via tutto. Quindi diciamo che il racconto è, diciamo, fa l'attesa è come dire il meccanismo drammaturgico del testo. E noi abbiamo in qualche modo tenuto molto conto di questa cosa qui. Abbiamo aggiunto il sottotitolo Cabaret, un po' un omaggio agli artisti che durante il nazismo, molti di questi tra l'altro erano ebrei, agli artisti che sono stati uccisi durante il nazismo perché facevano satira contro il nazismo. E i Cabaret Hitler li ha chiusi tutti e quindi un po', diciamo, un omaggio, un po', come dire, la conduzione registica e attoriale dello spettacolo è molto cabarettistica nel senso proprio tedesco. E come avete pensato la messa in scena? È molto semplice, è come se questo dormitorio fosse una specie di grotta costruita con delle lenzuola, con oggetti molto molto molto poveri, praticamente pentole, piatti, tutto molto povero. I costumi sono costumi che sono costumi dell'epoca, ma ogni tanto, se li guardi bene, ci ricordano anche i tempi di oggi. Quindi, come dire, registicamente non è una ricostruzione fedele di quello che era il tempo che fu, di quello che erano gli anni 30, ma strizza l'occhio anche a oggi. Spendiamo anche due parole sulla compagnia dei Masnadieri. Sì, la compagnia, intanto la produzione Mezzaria, è formata da Giovanni Arezzo, Alice Sgroi, Luca Fiorino e Gledoria. Le scenografie sono di Cristina Ipsaro Passione e la regia è la mia. Mein Kampf zu Cabaret, a Roma al Teatro dei Servi dal 4 al 6 novembre 2019, dal testo di Gheorghe Tabori con la regia di Nicola Alberto Orofino. Nicola, in chiusura, dopo Roma proseguirà il suo percorso? Sì, dopo torniamo nuovamente a Catania e poi facciamo tutto un giro siciliano con questo spettacolo. Per quest'anno chiudiamo qui. Speriamo di riprenderlo l'anno prossimo. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci Grazie. presto. Grazie mille. Ciao, ciao. L'agenda della settimana teatrale romana ed eccoci con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Che succede questa settimana? Prima di tutto, al Teatro Quirino arriva uno spettacolo abbastanza storico perché è l'omaggio a Giorgio Strehler che Monica Guerritore porta sul palco appunto del Quirino da questa sera, 29 ottobre, fino al 10 di novembre e lo fa con L'anima buona del Sichuan di Bertolt Brecht. Con un bel po' di attori, insomma, e la regia, sempre di Mario Guaritore, ma ispirata all'edizione che Strehler ne fece del 1981. Si tratta di questa provincia cinese, Sichuan, dove tre dei giungono alla ricerca di qualche anima buona e ne trovano solo una, la prostituta Shen Te, che li ospita per la notte. Questo è, diciamo, l'immaginario in cui Brecht ha ideato il suo lavoro che ha a che vedere con la profondità degli uomini sul rapporto tra bontà, generosità, da una parte e dall'altra egoismo, cinismo di una società sempre più malata. E quindi questo è quello che andremo a vedere per le mani di Monica Guerritore al Teatro Quirino fino al 10 novembre, da questa sera. Questi giorni torneremo anche al Teatro Belli, perché abbiamo ben due appuntamenti dedicati a Trend, la rassegna di drammaturgia contemporanea in lingua inglese, l'opera. La scena britannica presenta in questo caso 29, 30 e 31 da questa sera, quindi tre repliche, un testo di Marvin Jones, Flying into the Moon, con la regia di Carlo Sciaccaluga e due attrici che sono Alice Arcuri ed Eva Cambiale. La storia di due badanti, Francis e Loretta, che si trovano a dover affrontare la morte improvvisa dell'anziano che è stato loro affidato. C'è questo cadavere del vecchio e effettivamente le due badanti si trovano a dialogare sul tipo di lavoro che svolgono e anche sulle nuove opportunità che questa occasione in qualche modo offre. Sicuramente cambia, diciamo, la situazione lavorativa ed esistenziale delle due protagoniste. Cosa si diranno Francis e Loretta messe di fronte a questa occasione della vita? Andremo a vederlo al Teatro Belli, che se vogliamo rimanerci al Teatro Belli anche il primo, il 2 novembre, andremo a vedere per il progetto Alan Bennett Una patatina nello zucchero e Aspettando il telegramma. Sono due spettacoli, un dittico di due spettacoli di Luca Toracca, che prodotto dal Teatro dell'Elfo, porta due testi della brillante scrittura di Bennett, Una patatina nello zucchero, in cui c'è un figlio destinato a un ironico rapporto con la sua vecchia madre, e un altro testo che è appunto Un viaggio all'interno dell'animo umano, con di Aspettando il telegramma. Violet, la protagonista, sperimenta tutti i sentimenti che ha attraversato nella sua lunga vita. Una vecchietta di 95 anni, in una casa di riposo, ripercorre il suo vissuto, fatto d'amore, di gioia, di dolori, e questo lo porterà in maniera molto brillante, con la ricchezza di linguaggio, con ironia, come è la scrittura di Alan Bennett, primo e 2 novembre al Teatro Belli per Trend. Quali proposte arrivano dal Teatro Eliseo? Perché questa settimana abbiamo una prosecuzione del prologo di stagione 2019-2020 con ben due spettacoli. Il 30 di ottobre, martedì e mercoledì, ci sarà a Piccolo Eliseo La morte della Piccia, di un autore che chiameremo, insomma, forse lo chiameremo Noir, ma sì, possiamo anche chiamarlo Noir, via, Friedrich Dürrenmatt, con Daniele Pecci e la musica in scena di violino e violoncello, che porta questo capolavoro alla morte della vizia, della burla ironica, un mito che assomiglia a una caricatura, ma dalla satira, dal sarcasmo, il condanno prende tuttavia le distanze. Invece dal 1 al 3 novembre, sempre al Piccolo Eliseo, seguirà un lavoro che ci interessa molto, perché la regia è di un regista particolarmente interessante, giovane, che si chiama Gianluca Merolli, che è anche in questo caso attore di questo trio in scena, formato insieme a lui da Paola Sampo e Francesco Biscione. Questo testo, Stranieri, di Antonio Tarantino, racconta di un uomo che si è barricato nella sua casa per difendersi da chiunque voglia portarlo via dalla sua solitudine. Chiunque sia, venditore, ladro, fedele di un Dio sbagliato, sicuramente si tratta di uno straniero. E questo è quello che Gianluca Merolli ci porterà in scena al Teatro Eliseo con questo prologo di stagione. Ma attenzione, perché nella Sala Grande, da ieri fino all'11 di novembre, c'è un film di George Palant con la regia di Anna Ceravolo, in scena Silvana Bosi, Cristina Maccà e Alessio Caruso, porteranno in scena questo lavoro sulla dittatura militare in Argentina, quella che dal 76 all'83 ha compiuto violenze, atti di tortura e di omicidio per chiunque avesse qualcosa da dire contro e contrastare il regime militare della dittatura argentina. Dopo 20 anni, ecco qui Judith, che viene portato sul palco del Teatro Eliseo, Tutto per noi. mentre al teatro Brancaccino Terence McNally è l'autore di Paura da mare per la regia di Giulio Manfredonia, che aveva già debuttato, ma sarà in scena ancora per questa settimana fino al 3 novembre, ed è un lavoro che ha dato poi il là a una sceneggiatura Frankie and Johnny, che nel 91 è stato interpretato da Pacino e Michelle Pfeiffer per il cinema, una commedia divertente, romantica e provocatoria, come l'ha definita il New York Post allora, e tutto insomma l'ha molto divertente, un dialogo brillante, ironico, con persone tutte accomunate dalla paura di scoprirsi e fare spazio all'altro, accettando i propri limiti. Questo è quello che vedremo con Paura da mare fino al 3 novembre al teatro Brancaccino. Poi ancora Federico, al teatro di Roma questa settimana, posto che la Gaia Scienza continua con essa tutti i lavori collaterali dedicati insomma agli anni 70, ne abbiamo parlato già la scorsa settimana, mostre e grande attenzione appunto alla scena degli anni 70, alla scena sperimentale degli anni 70, ma anche questo è un weekend, anzi una settimana un po' particolare, perché questa sera al Teatro Valle c'è la proiezione del documentario di Audronis e Yuga e in Passa Necrocius, Sedia del padre. È un documentario, sarà alle ore 18, salutato Giorgio Barberio Corsetti, con appunto autori e personaggi insomma che hanno attraversato un po' la carriera di Montesene Necrocius. Pensiamo soprattutto a Aldo Grompone, produttore, Mascia Musi e Daria De Florian, coordinato il tutto da Valentina Valentini, e quindi questo lavoro tra teatro e cinema e documentario ci va a raccontare uno dei più grandi registi della storia recente del teatro mondiale. E questo però è anche il weekend che ci porta agli omaggi, tra virgolette, per Pierpaolo Pasolini in occasione dell'anniversario della morte, dell'omicidio, il 2 novembre del 75, l'ha rovesciato sull'asfalto all'idroscalo di Ostia, e andremo a vedere soprattutto proprio per l'occasione il 3 novembre al Teatro India. Un omaggio, questo è il tempo in cui attendo la grazia, ci dice la scheda, sarà appunto la regia di Fabio Condelli, il testo appunto di Pierpaolo Pasolini, la drammaturgia ha partecipato anche Gabriele Portoghese, che sarà in scena, ed è un omaggio particolare che ci porta appunto nei luoghi che hanno segnato l'esistenza del poeta friulano, dai luoghi di origine fino a quelli che hanno segnato la propria fine, la propria morte. Quindi alle ore 21 il 3 novembre al Teatro India per l'omaggio a Pasolini. Mentre invece al Teatro Argentina il 1 di novembre andremo in viaggio alla scoperta della fascinante cultura della Cina, con radici antichissime e in qualche modo legate dai fili della seta, uno stretto legame tra Oriente e Occidente, alle 19.30 al Teatro Argentina. Teatro Ambrogio Vinelli, perché da 30 ottobre fino al 10 novembre Giuseppe Battiston torna con Orson Welles Roast, scritto dallo stesso Battiston con Michele De Vita Conti, che ne cura anche la regia, ed è un lavoro ovviamente dedicato al grande regista Orson Welles, che torna il cinema, se vogliamo anche un legame per il fatto che lo stesso Welles ha recitato insieme a Pierpaolo Pasolini un corto meraviglioso, l'avventura artistica di Orson Welles attraverso ricordi e aneddoti che Battiston va a ripercorrere sviluppando questo geniale, originale artista, regista, produttore, attore, insomma tutto quello che è stato il grande, immenso Orson Welles. Fino al 10 novembre, dal 30 ottobre, Teatro Ambrogio Vinelli. Cos'altro? Sicuramente ce ne andremo anche al Teatro della Cometa, perché Nadia Baldi presenta Ferdinando, forse il testo più famoso di Annibale Uccello, che dal 1986 viene fatto continuamente, sempre dal 30 ottobre al 10 novembre, per questo lavoro con attori di particolare storia, Gea Martire, Fulvio Calderuccio, Francesco Roccasecca e chi un po' più giovane, insomma, Chiara Baffi, che è stata anche insignita di molti premi nel recente passato. La baronessa borbonica Donna Clotilde si rifugia in una villa della zona vesuviana e sceglie l'isolamento come segno di disprezzo per una nuova cultura piccolo borghese che si afferma dopo l'unificazione d'Italia. Questo è il lavoro e il punto di partenza di Ferdinando, di Annibale Ruggero, grande drammaturgo scomparso e rimpianto, che da Napoli, insomma, in qualche modo si era già avvicinato al resto d'Italia, e andremo appunto a vedere ciò che ne porta in scena Nadia Baldi con appunto al Teatro della Cometa. Ancora andiamo al Teatro Arco Studio, perché dal 30 ottobre al 3 novembre andremo a vedere proprio lo spettacolo nella nostra programmazione, ovvero sia Il Dolore, Diari della Guerra, tratto da due autori come Peter Weiss per L'Istruttoria e Margaret Duras con testi del dolore, i quaderni della guerra. In scena e alla regia c'è una grande attrice, una grande interprete del teatro di questo tempo, che è Elena Ardigo. Questo diario biografico del Margaret Duras, che appunto si andrà a intersecare con alcuni testi tratti dall'istruttore di Weiss, indaga un momento storico legato alla fine della Seconda Guerra Mondiale e precisamente la parte finale, la difficile primavera del 1945. Questo è appunto ciò che vedremo in scena dal 30 ottobre al 3 novembre con Elena Ardigo al Teatro Argo Studio. Questa settimana è anche il debutto a Roma di questo strano particolare progetto che Roberto Castello Alves ha curato insieme al Roma Europa Festival per l'Africa. Mbira è uno spettacolo in tour continuo che va insomma a toccare i palcoscenici periferici e non convenzionali delle varie città, partito appunto da Milano, arriva a Roma agli spazi di Spin Time, allo spazio anche al 238 Nuovo Cinema Palazzo. Dunque, se Spin Time ha già visto una conferenza stampa e un lavoro appunto che Roberto Castello ha già curato, nelle scorse settimane, questo lavoro dedicato all'Africa, il 1 novembre prosegue al Nuovo Cinema Palazzo a San Lorenzo, mentre il 2 e 3 novembre sarà all'Hangar 238 in un tendone da circo allestito a Monte Sacro, e il 4 novembre al Teatro Biblioteca Quarticciolo in collaborazione con l'associazione Spellbound, per tornare poi il 9 a Spin Time, ma ne parleremo la prossima settimana. Si tratta di un progetto di spettacolo non teatrale, cioè costruito pian piano nel tempo con una struttura particolarmente complessa e tutta da vedere. Mbira è un lavoro che si compie anche attraverso una grande indagine giornalistica, politica, che anche insomma, Graziano Graziani e Christian Raimo hanno aiutato un po' a realizzare, e la compagnia Aldes, che è una compagnia di danza, riesce insomma a tirar fuori un lavoro trasversale tra il teatro, la riflessione e anche la danza, perché no? Perché la cultura non è un mezzo per generare soldi, ma per contribuire a creare contesti sociali in ambito della qualità della vita di tutti, italiani e stranieri che siano. Questo è il lavoro Mbira di Roberto Castello, quindi andremo a vedere in questi spazi con Roma Europa Festival per questa settimana. Roma Europa Festival che questa settimana presenta Ritorno un po' alla danza, perché va a presentare intanto il lavoro di Enzo Cosimi alle ore 19 di mercoledì 30 ottobre. Si tratta di un itinerario sull'atto performativo della formazione all'azione. Forse c'è abbastanza cielo su questi prati. Questo ci dice Enzo Cosimi, l'esito di un progetto di formazione proposto da Cosimi con l'Accademia Silvio D'Amico e l'Accademia Nazionale di Danza, che andremo a vederlo il mercoledì alle ore 19 al Mattatoio. Mentre lo stesso giorno alle ore 21 al Teatro Olimpico, data singola per vedere William Forsythe con A Quiet Evening of Dance, in inglese, mercoledì e giovedì 30 e 31 ottobre al Teatro Olimpico, per questo lavoro di Forsyth, che riunisce 7 dei suoi più celebri collaboratori per questa occasione, per segnalare il rapporto, no, tra il balletto e la mente del coreografo, il fraseggio che viene costituito dai respiri e le immagini geometriche, i movimenti, le posizioni che dal balletto finiscono appunto nella creazione contemporanea. Questo per Romeo Europa Festival per la danza, ma un altro appuntamento del Romeo Europa Festival, ultimo che andremo a segnalare, è il 3 novembre al Mattatoio Teatro 1, Lorenzo Ponte, Clio Saccani, Nora Paris con Can You Hurt Me? È un progetto che ha vinto Macerata Opera 4.0, il concorso Under 35, di cui Romeo Europa è partner. Si tratta di un'opera che racconta la storia di Orfeo, musicista, figlio di una società consumista, che lo spinge a desiderare pubblicamente nuovi oggetti e partner. Questo è il rapporto di Orfeo con Agave, quindi il rapporto con l'erotismo, con una ragazza appunto della sex chat, e in questa prigione di desiderio e incapacità di relazione si sviluppa un rapporto con il mondo fuori di sé, tutto assolutamente da riconsiderare. 3 novembre alle ore 20 al Mattatoio, e questo, ve lo dico, è tutto. Un abbraccio Simone, a martedì. Ciao a tutti! Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.